Sono pronto. Sono convocato. Sono stato convocato. Siamo state convocate anche noi. Mister, siamo convocati. Sono convocato. Mister, ci sono. Andiamo. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Buon pomeriggio, buonasera a tutti. Edoardo Lavezzani, il nostro autore, Roberta Frisani adesso in regia. Giovanni Capuano naturalmente, ciao Giovanni. Eccoci, ciao, eccoci. Buon pomeriggio. Allora, pomeriggio importante che in questa domenica che casca al centro del mercato, nella fase più calda del mercato. Perché? Perché vale la par condicio di Via del Mare. Il Lecce, dopo aver fermato la Juventus, ferma anche l'Inter, che era passata in vantaggio alla fine. Una partita molto difficile con diversi episodi, parliamo poi, sapete, con Marelli. Episodi arbitrali. Ebbene, Bastoni al 71esimo, poi al 77esimo il gol di Mancoso, dunque finisce 1-1 questa partita. La Juventus ha la possibilità di fare il break, questa sera gioca in casa con il Parma nel posticipo. Altri risultati: il Milan all'ultimo respiro batte l'Udinese 3-2, Bologna-Verona finisce 1-1, anche qui diversi episodi. A Brescia c'è uno dei gol più belli del campionato, lo segna Torre Grossa per il momentaneo vantaggio del Brescia, ma finisce 2-2, qui espulso Balotelli, altro argomento di discussione. Appunto, Lecce-Inter 1-1, saluto anche Pierluigi Pardo, ciao Pier. Ciao Carlo. Lascio a Giovanni Capuano, titolare di questo microfono la domenica, un commento sui risultati del pomeriggio. Ma guarda, mi sembra che il commento chiaramente debba essere fatto su Lecce-Inter, nel senso che il pareggio è pesante, molto più pesante di quello fatto dalla Juventus in quello stesso stadio che hai ricordato tu, perché oggi l'Inter ha dato l'impressione di giocare una partita un po' pigra. Lo ha fatto al di là degli episodi per 70 minuti, poi si è trovata in vantaggio in maniera abbastanza casuale e a quel punto non è stata capace, si è distratta e non è stata capace di chiuderla. Ecco, se all'Inter di Conte, che è, lo abbiamo raccontato per mesi, distante per valore della rosa rispetto alla Juventus, viene a mancare la ferocia, la cattiveria agonistica, diventa una squadra normale e c'è il rischio che il break di questa sera della Juventus abbia un peso sul campionato. Intanto deve farlo il break la Juventus stasera con il Parma. Pierluigi, possono aver influito le voci, i venti di mercato sull'Inter di oggi? Ma non lo so, il vero paradosso è che l'Inter, che ha vissuto momenti di grande emergenza, adesso stava recuperando una sua normalità. No, sono d'accordo con Giovanni, cioè non era l'Inter di Conte, nel senso che se c'è una caratteristica indiscutibile di Conte, della sua qualità, è proprio l'approccio alla partita, il fatto di sbranare spesso gli avversari nei primi minuti. Oggi l'Inter non ha avuto la stessa ferocia e quindi questo è secondo me il tema della giornata. Poi può capitare di sbagliare una partita, può capitare di pareggiare a Lecce, l'ha fatto anche la Juve, però certo pesa, e la squadra che abbiamo visto oggi non aveva il senso di urgenza della squadra di Conte. Bene, allora interrogo anche gli ascoltatori su questo tema. Possono aver influito i venti di mercato, l'Inter non aveva la stessa ferocia e perché? 349-238-6666 WhatsApp, numero verde 800-24-0024. Altri temi, ce ne sono un sacco. Dunque, tra i molti altri temi rivoli di questa giornata, ieri sera abbiamo assistito all'ennesima tappa della Via Crucis del Napoli e secondo Gattuso a questo punto il Napoli deve avere paura. Un po' esagerato, però Gattuso la pensa così. Essere bravi a mettere da parte gli alibi, perché se andiamo alla ricerca degli alibi qua non se ne esce più. Qua ci dobbiamo dimenticare tutto quello che è successo, perché oggi è il presente. Non dobbiamo andare alla ricerca dei tifosi perché non cantano, non dobbiamo andare alla ricerca delle multe perché ancora non sono state elevate, non dobbiamo andare alla ricerca oggi, bisogna andare alla ricerca di come uscire da questa situazione che siamo messi. Forse non tutti hanno capito in che situazione siamo messi, perché stiamo scherzando con il fuoco. Pierluigi, hai raccontato la partita del Napoli ieri sera, l'ennesima serata nera, nerissima, piena di streghe, di fantasmi, eccetera, eccetera. Io continuo a pensare che le storie di fine ciclo siano queste, non si vede mai il fondo del barile, onestamente. Mi viene in mente sempre, lo dico ogni volta, il Milan dei sacchi bis, del cappello bis, delle brutte eliminazioni in Coppa, delle sconfitte interne in campionato, eccetera. Anche qui il fondo del barile non si vede, mi pare. Pier? Non c'è. O ripeschiamo. No props. Giovanni? No, non si vede il fondo del barile, però Gattuso, credo che siccome il riferimento a Scherziamo col fuoco era guardare la classifica, leggere la classifica e quindi guardare che cosa succede soprattutto alle spalle, io credo che tu abbia ragione, sta esagerando, esagera da questo punto di vista. Ha ragione quando dice che il Napoli deve trovare dentro di sé la forza per uscire da questa situazione, però il contesto deve dare una mano. Ieri c'è una scena che, e poi sì, mi piacerebbe confrontarmi con Pierre, è quella di Insigne, sesto minuto del secondo tempo, c'è il Napoli che fa questo accenno di reazione, colpisce il palo, Insigne chiede al pubblico sostegno e riceve dei fischi. Ecco, probabilmente non solo la squadra ma tutto l'ambiente devono capire in che situazione è il Napoli in questo momento. Ancora qui la conferma sul di Pablo. Sul pubblico sappiamo che c'è anche un tema legato al regolamento d'uso dello Stadio San Paolo, che è molto restrittivo rispetto ad altri stadi. Non entro nel merito, però è un elemento che sicuramente toglie in questo momento calore. Sai, spesso vengono stigmatizzati anche giustamente i comportamenti degli ultra, delle curve, poi però quando le curve non ci sono si sente la differenza per quella che è la struttura dello Stato italiano. Poi perché da chi sbaglia deve pagare in curva, in tribuna, per carità, non è che sto facendo il difensore delle curve, però poi capisci che per come è strutturato lo stadio all'italiana, quando poi c'è la coreografia o c'è la spinta di una tifoseria organizzata, fa la differenza. Questo è l'oggettivo. A Napoli ci sono in questo momento delle norme, dell'applicazione delle norme per il regolamento dello Stadio San Paolo è particolarmente restrittiva e si sente, oltre ovviamente ai risultati della squadra. Per il resto Gattuso è stato fin troppo severo con se stesso, è il solito Gattuso che ci mette sempre la faccia, quasi esagerando la propria percentuale di colpe. Però è evidente che degli errori li sta facendo anche lui, e secondo me, lo dico sinceramente, è evidente che Ancelotti non era il principale colpevole, perché insomma, comunque la scossa non c'è stata. Poi anche Ancelotti certamente aveva delle sue colpe, perché la situazione è talmente negativa adesso che non ci sono delle persone esenti da colpe. Però adesso è dura, perché veramente poi non si vede la piana, non si vede nemmeno la luce, non vedi neanche un filo qui aggrapparti, perché onestamente mi sembra la situazione comunque la giri, il cubo di Rubik non si incastra, perché ci sono difficoltà societarie, difficoltà sul campo, difficoltà nei rapporti con la gente, difficoltà da tutte le parti, una scintilla la vedi. No, esatto, adesso paradossalmente c'è il fatto che affronti le due squadre comunque più difficili, la Lazio in Coppa Italia e la Juve, e magari può essere uno stimolo in più, e la speranza per il Napoli è quella di fare la prestazione della vita e da lì ripartire con entusiasmo, perché hai bisogno di qualcosa di eccezionale per venire fuori dagli esatto. Sì, uno dei paradossi è molto che... difficile, Uno dei paradossi è che ancora tu non hai capito com'è il Napoli di Gattuso, perché il Napoli di Gattuso, ad esempio, solo restando al 2020, quindi dopo la sosta, ci ha fatto vedere una partita in cui è stato dominato in casa dall'Inter, una grande partita giocata all'Olimpico contro la Lazio, dove assolutamente non meritava di perdere, e ieri sera credo si sia toccato ancora nuovamente il punto più basso. Non lo vedi? Cioè, manca anche la continuità di prestazione, perché poi le partite puoi anche perderle in una stagione nata male. La verità è che il Napoli di Gattuso è sulle montagne russe come prestazione, e molto spesso in realtà sulle montagne russe significa poi questo vuol dire anche grande fragilità emotiva, perché primo tempo in cui riesci a stare a galla, prendi il gol, nel secondo tempo crolli e poi ti casca addosso anche la lira dello stadio. Allora, altro tema, vi faccio sentire due voci. Sì, ho detto prima, siamo nel pieno del mercato in questa domenica che può segnare un break, vediamo la Juventus nella Kulusevski Night. A proposito di Juventus, Sarri, Per il mercato che sta facendo e per la stagione che sta disputando, soprattutto in campionato, se l'Inter in qualche modo le fa paura. Grazie. Ma paura mi sembra una parola grossa, cioè, qui si sta parlando di sport, io poi non sto seguendo il nostro di mercato, figuriamoci se segui il mercato dell'Inter, cioè, non mi interessa assolutamente. Noi abbiamo, così come siamo, abbiamo la ferma convinzione di poter essere protagonisti, quindi dobbiamo pensare solo e esclusivamente a noi, a rendere il 100% il nostro potenziale, cosa che finora non abbiamo sempre fatto, anche se ultimamente i segnali sono molto positivi in questo senso. E poi, ovviamente, questo era Sarri, non giudico il mercato dell'Inter. Conte ieri ha detto, beh, Spinazzola io lo volevo, Ashley Young, tempo che è pronto, ne passa un po'. Insomma, ha fatto capire che questo scambio saltato è stato il tema della settimana con Politano, gli è andato giù. Fonseca sul punto. Spinazzola sta bene, ha allenato molto, molto bene, giocherà domani e sta bene, sta pronto. Sta contento, mi sembra contento. Volevo avere qui Politano, è verità, ma devo dire che io ho total fiducia in Petrachi e Guido. Torniamo su questi, su tutti questi punti, compreso quello del mercato, perché a quest'ora all'Inter, dunque, Eriksen dovrebbe arrivare domani in settimana, o comunque arriverà. Giroud, vediamo, perché è tornato in ballo un possibile scambio Politano-Llorente con il Napoli. Spinazzola è tornato a Roma, Conte non è contento, traffico, torniamo e ne riparliamo. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci. 800 24 00 24 800 24 00 24 Tutti convocati. Tutti convocati. Oh, ragazzi, l'ho visto altre tre volte, ma voglio rivederlo altre 12, il gol di Torre Grossa. Neanche Pardo, il signore della PlayStation, riuscirebbe a raccontare un cioè c'era il telecomando dentro il chip dentro il pallone, l'hanno telecomandato, botta di sinistro da 30 metri esattamente all'incrocio dei pali, una roba pazzesca da svenimento. Poi è stata espulsione di Balotelli. Ti ricordi qualche gol più bello in questo campionato, Giovanni? A memoria, no, bello. Facciamo invece, sto rivedendo l'espulsione di Balotelli, che è proprio andato a cercarsela, perché fondamentalmente fa un fallo a metà campo, ma niente di straordinario, manda a quel paese due volte, insomma, in maniera sgarbata per la prima volta l'arbitro, prende il cartellino giallo, lo rifà e prende il cartellino rosso, proprio un po' cercata. Sì, partiva dalla panchina, non stava bene, è finita anche peggio. Andrea Sorrentino, buongiorno. Ciao a tutti. Come stai? Salve. Benissimo, spero anche voi. Grazie. Noi, ciao. No, noi molto bene. Capuano un po' influenzato, ma ce la facciamo, ce la possiamo fare. Allora, ragazzi, torniamo a monte, cioè Inter. Scambio mancato, settimana dello scambio mancato. Politano, Spinazzola, lo sappiamo tutti. Poi Eriksen che arriva. A un certo punto l'Inter sembrava prendere praticamente tutti. Era sotto contratto anche Pardo per il ruolo di portiere. Ma poi salta questo scambio. Oggi il pareggio a Lecce. E la mia domanda che gira Andrea Sorrentino è: hanno influito tutte queste carambole di mercato sulla partita di oggi, in cui all'Inter mancava la solita garra feroce? Ma guarda, io credo che all'Inter oggi sia mancata non tanto la garra e la ferocia, perché poi hanno provato a fare la partita per tutti i 90 minuti, si sono infranti su un muro incredibile che ha tirato su il Lecce, che oggi ha difeso proprio come ai vecchi tempi, davanti alla linea dell'area di rigore, Rossettini quasi faceva il libero, i due attaccanti a 50 metri di distanza, la Padula e Babacar per prendere il rinvio. Cioè l'Inter ha incontrato una squadra che ha difeso benissimo e soprattutto, cosa le è mancato secondo me oggi? Le sono mancati Lukaku e Lautaro, soprattutto Lukaku, perché poi alla fine l'Inter di quest'anno, secondo me, rispetto a quella dello scorso anno, ha in più Lukaku e Lautaro, perché sono stati i giocatori che hanno risolto il maggior numero di partite, che hanno caratterizzato la stagione. Se guardiamo qualche numero così al volo, io dico che l'Inter non ha 25 punti in più dello scorso anno, ne ha appena 7 dopo 20 giornate. E lo scorso anno difendeva addirittura meglio numericamente, perché aveva preso meno gol di adesso. La differenza sono i 10 gol in più che ha segnato e che le hanno dato questi punti in più. E oggi le sono mancati i giocatori che di solito hanno segnato i gol o che li hanno fatti segnare, cioè Lukaku in principal modo e Lautaro, e sono stati annullati. Poi in partite di questo genere, secondo me, e chiudo questo intervento, avere un centrocampo con Sensi e Barella e avere un centrocampo troppo leggero. Conte ha bisogno, anche proprio per la natura del suo gioco, di giocatori più muscolosi, più tosti, più cattivi, più perfidi agonisticamente e tecnicamente, soprattutto in partite di questo genere che devi tirar fuori con la clava, e per questo stanno cercando sul mercato giocatori di gamba, di personalità anche internazionale e soprattutto di muscoli. Giroud è un colosso assoluto, ad esempio. Ecco, quella carona di Sorrentino ha fatto il ritratto di Vidal, che forse non arriva a Pardo. Sì, sì, ma infatti Vidal, lo sappiamo, è il giocatore, gli ha fatto la fotografia, il giocatore perfetto, perché è il giocatore che ha questo mix di forza fisica e esperienza e garra che può essere utile in certe situazioni per dare ancora più intensità. No, io credo che l'aspetto invece che mi colpisce di più, lo ripeto, è l'approccio, nel senso che l'Inter quest'anno fuori casa aveva sempre vinto, tranne che a Firenze, e anche a Firenze comunque era scesa in campo con un atteggiamento, con una voglia, con una grinta enorme, che qui si è vista soltanto dopo. Poi la partita poteva girare, poi ci sarà Maranato, vedremo tanti episodi, però insomma, voglio dire, comunque sia, oggi qualcosa è mancato, secondo me, in termini di attitudine, a una squadra che invece fino a questo momento, soprattutto in trasferta, si era sempre distinta per la sua voglia di vincere. Poi è chiaro che, e questo, se torniamo al famoso dibattito con Capello protagonista, è chiaro che quando gli spazi sono pochi, quindi quando ci sono avversari che riescono a difendersi in maniera così compatta, in certi momenti così bassa come il Lecce oggi, delle caratteristiche di qualche avversario vengono frenate, e l'Inter in maniera particolare, perché ha degli attaccanti che si esaltano con un po' di spazio a disposizione. Sei d'accordo, Giovanni, sulla considerazione fisica di Andrea Sorrentino? Sì, certamente, anche se Eriksen non è ad esempio quel giocatore lì. Eriksen è un giocatore molto, molto diverso dal, certo, colosso appunto, con centimetri e chili dentro il campo. Ho l'impressione che Conte dovrà attendere l'estate per avere quel tipo di centrocampista, e in generale io non credo che le voci di mercato possano aver influito. Credo però che Conte debba fare molta attenzione sull'andamento di questa prima parte di 2020, perché di fatto l'Inter ha pareggiato 4 delle ultime 6 partite. È vero che i punti accumulati prima sono più che sufficienti per considerare straordinaria la stagione, però è anche vero che molto del primato dell'Inter a lungo, per mesi e per settimane, si è retto su questa impressione di essere invincibile, di fare qualcosa di straordinario, e io oggi per la prima volta a Lecce ho avuto l'impressione di una squadra che pensasse di gestirsi la partita in maniera più normale, proprio perché fuori dall'emergenza, proprio per quello che raccontava Pier prima, ci sono state partite in cui l'Inter è stata in emergenza, oggi non lo era. Oggi ho veramente faticato a ritrovare la fame della squadra, che al di là della difficoltà di un avversario che si chiudeva e chiudeva tutti gli spazi, era poi oggettivamente inferiore. E poi se tu passi in vantaggio, in qualche modo, secondo me, tu dopo 6 minuti non puoi farti segnare il gol che ha fatto il Lecce, dimenticandoti per 2/3 dell'azione degli uomini liberi. Sì, cioè, con Bastoni che poi si è fatto anche anticipare. Spero che poi Conte ci racconti come la vede lui. Insomma, però sono molto curioso. Mi è parso proprio un gol preso per disattenzione, per calo d'attenzione. Il che è un paradosso assoluto per questa Inter e per una squadra di Conte in generale. Sono molto curioso di sentirlo. Tra poco sfiderà i microfoni di Sky e lo faremo sentire in diretta. Anche perché si tratta di capire, Andrea, qual è l'umore di Conte, che ieri ha detto, insomma, è ritornato su quello scambio Spinazzola, però io Spinazzola lo volevo, e però mi serviva, adesso mi ha preso Ashley Young, che però ha i suoi anni, però chissà quando è pronto, eccetera, eccetera. Tra le righe si è intuito, non certo una felicità di fondo. Lui che le stia puntando i piedi e stia sbraitando da mesi, l'abbiamo capito, l'ha fatto capire anche lui benissimo. Lui ha un estremo bisogno di esterni di gamba, quella è è una delle sue principali esigenze. Infatti stanno cercando sulle corsie esterne, infatti arriverà anche Moses, che è un altro dei suoi ragazzi dello scudetto vinto in Premier, anzi del campionato vinto in Premier, e ha bisogno di gente di corsa, di gamba. Ashley Young è uno di esperienza, e una volta era anche di grande corsa, adesso non so quanto ne abbia, ma insomma quello è la caratteristica del giocatore, e ha bisogno di gente che gli rovesci a livello anche di esperienza, ripeto, di perfidia a certi livelli le partite che in Italia quasi sempre sono bloccate. E adesso, tra l'altro, secondo me un po' di avversari hanno cominciato a capire come bloccare Lukaku e Lautaro, ad esempio mai affrontando di 2 contro 2, ma sempre almeno 3 contro 2 come ha fatto oggi il Lecce. E quindi Conte ha bisogno di gamba, ha un bisogno esagerato e disperato di giocatori di intensità agonistica, perché poi il calcio di Conte è quello, è molto basico, è difesa serrata e enorme intensità agonistica nel rovesciare il fronte. Ma infatti adesso in un pomeriggio di bicchiere mezzo vuoto e di pessimismo, che però non deve ovviamente distogliere dal senso complessivo, cioè sono stati mesi meravigliosi di crescita clamorosa con un grande lavoro di Conte, quindi questa è la premessa. È chiaro che Conte, ha ragione Andrea, il valore aggiunto di Conte è soprattutto quello di un calcio agonistico, di un calcio di grande attenzione, di grande grinta, di cura del dettaglio. Oggi abbiamo visto una partita da questo punto di vista non da squadra di Conte, nel senso che Conte non è, ma credo che pure lui non abbia l'ambizione di essere Viola, di essere uno che inventa calcio, che è visionario, ha un tipo di calcio abbastanza tradizionale, no? Però applicato alla grande, con un agonismo incredibile, con una forza incredibile, con una cura del dettaglio incredibile. Oggi non si è vista né la veemenza, la ferocia di altre circostanze, né l'attenzione. Non puoi sempre pensare che Lautaro e Lukaku ti facciano miracolo, una mezza giornata quella, di... Tra l'altro Lukaku aveva pure segnato, cioè, voglio dire, le partite possono girare, ripeto, non è di per sé una tragedia questa. È chiaro che in un momento come questo, con la Juve che stasera può scappare a più 4 e con la Lazio che adesso virtualmente potrebbe superare l'Inter, è chiaro che è un primo passaggio cruciale della stagione. Però io quello che dico è che Conte, appunto, con tutto rispetto, non è Guardiola, non è la situazione, non è quella di cambiare le regole del gioco. Di fare delle cose semplici in maniera perfetta, certo, ci è riuscito. Oggi però no, poi la differenza anche lì è sottile, Giovanni, cioè Lukaku e Lautaro, sì, che giocano una partita più o meno normale. No, più o meno normale, oggi hanno duettato molto, però poi di fatto hanno solo concluso Lautaro da lontano. Lukaku ha fatto quel gol, poi sentiremo Luca Marelli, insomma oggi c'è parecchio da vedere sull'arbitraggio di Giacomelli, Lecce Inter. Intanto però, in una domenica di mezzo bicchiere vuoto, io devo dire che diventa un dato anche il prolungarsi dell'assenza di Conte alle interviste, perché solitamente, come sanno benissimo quelli che fanno questo lavoro, chi è in trasferta, soprattutto trasferta lontana, ha fretta di andare a parlare, chiudere il giro di televisione, radio e carta stampata per prendere l'aereo e tornare a casa. E invece sono passati Liverani e adesso sta parlando Corini. Da Brescia, e Conte probabilmente starà smaltendo un po' la delusione. Allora facciamo così, salutiamo Andrea Sorrentino e ringraziamolo. Ciao Andrea, alla prossima. A voi, abbracci, ciao ragazzi. Ci fermiamo un attimo, aggiorniamo la seduta in attesa che si palesi Conte e poi continuiamo a parlare. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Tutti convocati. Corner per il Milan, battuta letta bene da Okaka, poi la vola! Dalla distanza di Hernandez. Sgancia Streger Larsen, è servito sulla corsa, non va al cross di prima, voleva la palla filtrante Fofana, invece dal triangolo con De Paul. Ora Streger Larsen può andare in mezzo, il colpo di testa a rimorchio e ha pareggiato l'Udinese con la stoccata aerea di Kevin Lasagna. Si è staccato, si è smarcato, ha beffato Donnarumma, 2-2 all'85esimo, gol da super centravanti di Lasagna. Rebic ritarda il tiro, Rebic deve andare in croce, Rebic! Doppietta di Ante Rebic al 93esimo minuto, torna avanti il Milan, che pomeriggio a San Siro, tutti aspettavano Zlatan Ibrahimovic e invece l'uomo che si impone è Ante Rebic, in un tempo si prende questa maglia, si prende questa gente, si prende la vittoria. Oh, per la cronaca, a Sky stanno parlando tutti, compresi i protagonisti di Atalanta-Spal, posticipo di domani, ma Conte no. ancora non è arrivato, diceva giustamente Giovanni Capuano, questa è una notizia. Una notizia arriva anche da San Siro. Carlo Pelegatti, buongiorno, buonasera. Sì, buon pomeriggio. Non è una notizia perché Conte di solito arriva sempre abbastanza tardi nelle interviste a fine partita, è un generale. Ma poi chi è più felice arriva prima, anche ieri a San Paolo è arrivato prima Iachini di Gattuso, cioè, per carità, non voglio dire, adesso vediamo, poi se fra un quarto d'ora non arriva, allora è un altro discorso, però... al momento siamo ancora nell'ambito della normalità, okay. L'allenatore contento, ecco, siamo ancora nell'arbitro prima. Della normalità, Carlo, Rebic da oggetto misteriosissimo, oggi si è preso San Siro, questa gente, questa maglia, questa squadra, allora, quello che direi, vuoi tu. Hai ragione, ma da oggetto misterioso fino a mercoledì sera, perché poi mercoledì ha giocato contro la SPAL, e già contro la SPAL ha giocato una partita all'altezza della partita di oggi, ha giocato una buona partita andando via in velocità, piedi irresistibile, cose da San Siro, perché noi stiamo cercando uomini che saltano l'uomo, che sembra una cosa normale nel calcio, ma a San Siro, quando gioca il Milan, l'uomo che salta l'uomo non è mai una cosa così scontata. Oggi ho visto la più bella prodezza di questa stagione a livello balistico, a livello di stupore, Castiglieco. Quella di Castiglieco, meravigliosa, proprio rulletta metà campo, cose, cioè, a me piace andare a San Siro per emozionarmi e per che qualcuno mi stupisca, perché loro sono più bravi di me, sono più bravi di tanti altri perché giocano in Serie A. Ho visto delle cose, e Rebic, indipendentemente dal gol, adesso è un giocatore. Perché prima no? Ma mi dicevano abbastanza svogliato anche in partita, no. Sembrava veramente un oggetto misterioso. Adesso sembra improvvisamente, effetto Ibra? Non lo so. Diciamo anche, che casuale magari... o non casuale, è arrivato Ibra e abbiamo rivisto Rebic. Sarà un caso, non lo so. No, hai visto qualcosa. Diciamo effetto Ibra, dai, diciamo effetto Ibra. Diciamo effetto Ibra, sarà, non lo so. A livello soprattutto tempistica, effetto Ibra. Abbiamo ricominciato a vedere, i tifosi del Milan, abbiamo ricominciato a vedere delle vittorie. Scusate la banalità. Questa è una partita, Carlo l'ha vista, chi l'ha vista lo sa benissimo. Una partita che il Milan poteva tranquillamente non vincere. Udinese ha fatto anche una perdere. Cioè, anche perdere. Tanto che il 2-2 all'Udinese stava perfino stretto a un certo punto. Sono d'accordo con te. Esattamente, siamo tutti perfettamente d'accordo. Onestà intellettuale di Carlo Pelegatti, mai stata in discussione. Quindi, però poi il risultato è fatto nel calcio di piccoli dettagli, soprattutto sulle partite equilibrate come questa. E qui adesso, senza dare un potere traumaturgico a Ibra che forse è esagerato, però insomma c'è un'inversione di tendenza. C'è un'inversione di tendenza anche negli episodi, cioè anche nella capacità di trovare l'attimo, che poi significa la frazione di secondo prima dell'avversario, che significa quel quid di concentrazione in più. E probabilmente Ibra sta avviando un circuito virtuoso, no? Un circolo virtuoso, poi sì, è ancora presto sicuramente. Sì, oggi mi sembra anche che Pioli dopo qualche settimana ci ha messo un po', poi in realtà stia trovando anche continuità in mezzo, Bennacer, cioè stia dando al Milan una sua identità, non è la squadra migliore per qualità di questo campionato e difatti è ottava, però è una squadra che adesso comincia ad avere una sua logica, non so Carlo cosa ne pensa. Sì, certamente, una sua logica, una squadra compatta, e però attenzione, stiamo lodando il Milan con 3 punti più in classifica. Primo tempo a livello dei peggiori primi tempi che ci hanno abituato, vero? Cioè con sembrava il Liverpool, il l'Udinese, si trovava sempre un uomo libero, manovra facile, il Milan lentissimo nella ripartenza. Oggi veramente primo tempo veramente brutto, che poteva finire 0-0, c'è stata la disgrazia che non è una parata sbagliata, è una disgrazia di Donnarumma. Aveva sbagliato anche a Cagliari così, sì, però a Cagliari ragione, si era salvato. È la seconda, hai ragione. Ma evidentemente è una richiesta che gli viene fatta, quella di accorciare, uscire, perché anche nel secondo tempo fa un'uscita simile, dove però prende il tempo bene. Ai portieri si chiedono un sacco di cose bizzarre di recente, perché questo continua ricerca. Fa anche delle parate, Ciccio, voglio dire. Fa anche delle parate. poi nel secondo tempo para un rigore in movimento, una parata anche se era fuori gioco straordinaria, la parata rimane perché l'azione è regolare, poi sì, alza sì, la bandiera il guardialine, ma il giocatore ha tirato come se fosse in posizione regolare, il portiere ha parato come se fosse l'avversario in posizione regolare, salva altre tre parate, lo aiuta anche Kjær. Anche qui apriamo una parentesi, ci sono squadre che prendono giocatori ultra trentenni e allora c'è un bel rinforzo di esperienza. Prende il Milan Kjær, che ha giocato due mondiali, gli ultimi due mondiali li ha giocati da titolare alla Danimarca, sembra che abbia preso lo scarto degli scarti degli scarti. Questo è un po' anche il vizio di giudicare il Milan. Però Carlo, su Kjær io credo che la perplessità fosse legata all'idea di scambiarlo perdendo di fatto il controllo su Caldara, che non abbiamo mai visto al Milan e che però tutti ricordiamo difensore di prospettiva straordinario nell'Atalanta. Io credo che fosse quella la perplessità. Sì, ma al Milan non, ci sono rimpianti per Caldara. Poi gli auguriamo di fare un grande campionato. Poi nel secondo tempo, ecco, si è visto un Milan migliore, più compatto, un Milan da come abbiamo visto a Cagliari. Però ecco, però la difesa rispetto alle ultime partite ci sono state 4-5 non benissimo, secondo me. Ma sai cosa mi ha colpito di più? Condivido ovviamente con voi questa sensazione. Il Milan, come al solito, abbastanza lentamente, ma fino a tre quarti avversaria ci arriva, nel secondo tempo facendo ripartire l'azione un po' più velocemente. Però l'Udinese ti faceva male tutte le volte che arrivava lì sulla tre quarti. Sì. Il Milan ti faceva male quasi mai. E Ibra, che sarà anche effetto Ibra, però oggi non ha strusciato pallone, e portare la palla a Ibrahimovic qualche volta bisogna pur farlo, no, ragazzi? Che voto gli date? Ah, guarda, io gli do un abbondante 6, anche perché la palla a Rebic la da lui, sbaglia un gol solo davanti al portiere, ma ci è arrivato bene quando mancavano due minuti, un minuto prima del gol dell'Udinese. E poi l'unica azione dignitosa del primo tempo l'ha fatta lui andando a prendere a centrocampo. Io gli davo 6,5, avesse fatto il gol, gli do 6 perché ha sbagliato quel gol. Io sì, faccio fatica però di andare sotto 6 con Ibra. Sono io gli do 6 perché comunque secondo me la quantità delle cose che fa è sempre significativa, però insomma Ibra migliore, auguro ai tifosi del Milan che sia diverso da quello che si è visto oggi. Secondo me vedremo forse anche qualche 5,5, però insomma secondo me 6 il voto giusto. Antonio Conte sta parlando a Sky. Siamo una squadra che dobbiamo andare sempre a 200 all'ora, quindi nel momento in cui qualcuno è sottotono non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere perché si abbassa comunque il livello della squadra e può capitare che pareggi una partita dove comunque alla fine, vedendo anche statistiche, tiri in porta, calcio d'angoli, avresti dovuto portare a casa, avresti dovuto fare 3 punti. Osservandoli un po' da bordo campo, dai la sensazione che anche tu non ti aspettavi tanti giocatori oggi un po' sotto ritmo, no? Pensa ai due interni di centrocampo, gli esterni, i due attaccanti, Lukaku in particolare. Come mai? Cioè, ti sei dato una spiegazione del perché oggi la squadra non è riuscita a crescere di livello durante la partita? Può capitare. Resta il fatto, ripeto, che noi non siamo una squadra che andando a una velocità media riusciamo comunque a portare a casa vittoria. Noi dobbiamo andare sempre al massimo, abbiamo fatto così per tutto il giorno d'andata, in qualsiasi partita che abbiamo disputato. Quando non riusciamo ad andare al massimo di giri siamo una squadra comunque normale. Alessandro. Sì, allora, questo è il primo giro di opinioni di Conte. Chiedo una valutazione a caro Pellegatti su questa giornata storta. Par condicio Lecce ferma la Juve, poi ferma anche l'Inter, però l'Inter oggi siamo tutti d'accordo, ma l'opinione di Conte è quella che ovviamente vale di più. Inter sotto ritmo, ha detto bene, quando giochiamo con un'intensità normale diventiamo una squadra normale, Carlo. L'Inter ha un po' la dolce condanna dell'Atalanta. Quando giocano al massimo veramente fanno veramente male, quando scendono un po' di ritmo, non sempre, perché l'Inter non può avere 47 punti se fosse sempre successo questo, ovviamente, però fa più fatica a portare a casa le vittorie, deve sempre girare al massimo come livello di condizione, soprattutto psicofisica, un po' quello che capita all'Atalanta. quando fisiologicamente hai qualche battuta d'arresto sul piano proprio psicofisico, ecco che magari emergono i problemi che francamente emergono un po' in tutte le squadre. Certo, questo chiaro, non è una cosa chiaro, che capita solo chiaro. Grazie Carlo, abbraccio. Buona domenica, ci fermiamo un attimo per il traffico, torniamo poi con ancora Conte parlando un po' della Lazio, tornando sul Milan, su tutto quello che volete. A proposito, 800 24 00 24 per entrare in tutti questi discorsi. I love this game. Tutti convocati. Convocati. Sono tutti gli allenatori che convengono da questo punto di vista che il mese del mercato è un mese difficile, perché no, certo, diventa difficile gestire la situazione. Per il resto penso di essere stato molto chiaro, anche perché poi ogni volta che dico una cosa viene sempre amplificata e comunque a volte strumentalizzata, utilizzata come meglio la stampa vuole utilizzarla. Ripeto, io sono contento di questi giocatori, niente, c'è la società che sta facendo delle valutazioni, noi dobbiamo lavorare, cercare, ripeto, di andare sempre al massimo se vogliamo mantenere una media punti importante. Ciao Alessandro Vocanelli, buongiorno. Ciao direttore. Ciao, salve a voi e agli ascoltatori. Vuoi strumentalizzare anche tu Antonio Conte? Ci sto provando, sto cercando le parole giuste per strumentalizzarlo, dai, vai. No, io penso che lui sbagli, lui sia talmente un grande allenatore così come un pessimo comunicatore. Non so se questo significa strumentalizzare le sue parole, però credo siamo proprio agli estremi. Lui è un grandissimo allenatore, ma dovrebbe trovare qualcuno che gli scrive i testi, perché tra l'altro lui è il primo che ha detto delle cose dei suoi giocatori, lanciando dei messaggi, spiegando a volte che non si trasformano in cigni, eccetera eccetera, per cui è anche adesso dire che è colpa degli altri, che il mercato diventa un problema, perché lui ha la fortuna di avere una società che ha deciso a fargli mercato. Io penso che il mercato sia un problema per quelli, per quegli allenatori a cui le società dicono no, questi sono i giocatori e vai avanti con questi, per cui poi sento dire noi dobbiamo andare sempre al massimo, perché dal punto di vista della qualità diciamoglielo a Liverani questo, cioè dal punto di vista della qualità, ma diciamoglielo a Inzaghi questo, ragazzi, non è che c'è da andare tanto lontano dai primi posti della classifica per trovare qualcuno, no, ma che anche dell'avversario di oggi anche dell'avversario di oggi Liverani se l'è giocata con i suoi limiti nella maniera giusta, e sentire l'allenatore dell'Inter che dice noi non siamo una squadra di qualità, per cui se non corriamo io penso veramente che gli possono venire le bolle. Allora no, però Alessandro, io dico questo, che no, Pier, secondo me questa ciao Ale, no, che qui secondo me la posizione di Conte è molto chiara, poi è ovvio che lui ogni tanto dice delle cose, ogni tanto le dice delle altre, perché secondo me questo rientra un po' nell'istintività del personaggio e un po' secondo me anche nel fatto di voler mandare messaggi diversi. Lui da un lato si tiene a difendere i suoi giocatori e l'ha sempre fatto, e l'ha fatto anche oggi, e dice una cosa sulla quale io personalmente sono d'accordo, perché dicevamo qualche minuto fa, cioè sì, che se l'Inter perde la furia agonistica e perde questo livello di applicazione diventa una squadra non proprio normale ma quasi normale, se stiamo ragionando di sfida tradotto, la Juventus tradotto non ha la qualità della Juve. Io sono d'accordo con Conte, sì, ma lui è ovvio, non è che gioca contro la Juve. Ogni tanto stimola i dirigenti, ogni tanto ci tende a rassicurare i calciatori, quindi sono d'accordo sul fatto che mandi dei messaggi delle volte contraddittori. Il tuo discorso, se oggi ci fosse stata Inter-Juventus non farebbe una grinta, ma vai a dire a Liverani che Sensi, Barella, Brozovic, Lukaku, Lautaro, De Vrij, Skriniar non sono giocatori di qualità per vincere una partita del genere, perché lui oggi lui l'ha detto riferita oggi che visto che l'Inter è una squadra di qualità, direttore, il calcio è bello anche per questo, cioè è ovvio che l'Inter 9 volte su 10 batte il Lecce, poi può capitare, come dice lui, che nella giornata in cui l'Inter non fa la prestazione che si aspettava, e Lecce fa una signora partita dal punto di vista difensivo, dell'orgoglio e di tante altre cose, alla fine arrivi questo risultato. Giovanni, però possiamo chiusare dicendo che mentre l'Inter non ha la qualità della Juventus quando va a Lecce e gioca in maniera normale, così possiamo chiusare, sì, così, Giovanni. Così, e possiamo anche chiusare che il problema di Conte con il mercato è che probabilmente con questo mercato lui il 20 di gennaio si aspettava di avere qualcosina in più, perché effettivamente se la lettura era dover provare a fare la corsa fino in fondo con la Juventus, che pure ha una rosa superiore, l'abbiamo detto mille volte, inutile starci a ripetere, chiaramente il mese di dicembre aveva raccontato che Conte aveva bisogno di qualcosa in fretta. Probabilmente qualcosa arriverà, se arriva Eriksen arriva un colpo fantastico e un colpo che vale non solo per questa stagione, però se oggi Conte è un po' deluso, io da questo punto di vista lo comprendo. Ragazzi, vi faccio sentire una cosa, sì. Scusa Carlo, una cosa in 15 secondi. Secondo me tutte le volte che ascoltiamo Conte, consiglio pratico, mozione d'ordine, pensate che lui in testa ha sempre la Juve e il primo posto. Mm-hmm. Quindi lui, sì, nella sua tutti i ragionamenti che fa, li fa sempre in relazione al suo desiderio di diventare una squadra dominatrice. Certamente non di confronti a Lecce, poi che oggi dovesse vincere, questo è indiscutibile e lo sa lui per primo, e sarà lui deluso per primo. Ma lui in testa ha quella cosa lì, che è il motivo per il quale abbiamo sentito fare delle uscite assurde, sì, durante il giorno d'andata con l'Inter che stava viaggiando a dei ritmi pazzeschi, e magari l'altra alleanza sono comunque soddisfatto perché stiamo facendo un campionato pazzesco. Lui no, lui ha, sì, in testa quell'idea lì. Sì, parametra su quello. Guarda che faccio fatica a sentirti, ma tanto ti devo salutare, quindi lo faccio subito, Pierluigi, ci sentiamo domani, ovviamente sì, tutti convocati dalle 14 come sempre. Per invece chiudere con Alessandro Vocalelli, vi faccio sentire una cosa di Ranieri e poi il direttore la commenta. Noi, a differenza della Lazio, che sono anni che vince trofei, che sta bene e deve cercare di entrare in Champions League, Noi eravamo partiti per salvarci. Io dicevo, ripetevo sempre 40 punti, perché i 40 punti erano la base sicura di mantenere Leicester in Premier League, e poi dopo è venuto tutto quello che è venuto, per cui oggi la Lazio, oggi sono 11 partite che fa la differenza, l'ho detto, si diverte, giocano a memoria, fanno quello che sapevamo che avrebbero fatto, non siamo stati in grado di fermarli, per cui complimenti. La letale, leggera, magnifica magia della Lazio, direttore. Quanto lui dura? Ha ragione, Ranieri. Io aggiungo una cosa che lui mi ha detto in privato 20 giorni fa, un mese fa, per cui però non è un segreto di Stato. Lui, giustamente parlando dell'Ester, mi disse: non solo noi abbiamo fatto una cosa straordinaria, però in quell'anno tutte le grandi hanno bucato. E quest'anno alla Lazio, ahimè per la Lazio, non sta succedendo che la Juventus stia bucando, anche l'Inter, per cui le avversarie comunque stanno facendo un campionato molto importante, per cui per la Lazio diventa complicato, secondo me, ripetere quell'impresa dell'Inter, perché la Juve non ci piacerà come gioca, a volte fa storcere il naso a qualcuno, perché però c'ha una media punti che arriva a sfiorare i 100 nel girone di ritorno, per cui ecco, io penso che la Lazio stia facendo benissimo, ma uno dei problemi della Lazio è che la Juve e anche l'Inter, tranne oggi, stanno facendo molto bene, per cui non è che c'hai un campionato senza padroni, no, la Lazio sta in un campionato ad affrontarsela che ha due padroni abbastanza riconoscibili. Sì, questo è vero, però se vediamo quanto continua ad essere così letale e leggera la Lazio. Grazie direttore, alla prossima. Grazie a voi, Alessandro. Un abbraccio a tutti. Giovanni, traghettiamo oltre il GR, continuiamo a parlare di questa giornata. Vediamo anche quanto va avanti Immobile a segnare così. Mamma perché mia. Se tu parti 1-2-0 con il tuo centravanti, poi diventa tutto più semplice. Se parti pronti via 2-0, poi i competitors prima o poi dovranno darci un occhio. GR. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Il suo motore aggredisce la strada così. E alla guida ci si rilassa così. Fuori c'è potenza. Dentro c'è classe. Nuovo Renault Koleos. Unisce lo spirito off-road alla classe di un SUV. A gennaio tuo da 389 euro al mese. In caso di permuta o rottamazione e con finanziamento. TAN 549, TAG 645. Salvo approvazione fin Renault. Info presso la rete aderente su Renault.it. Prova il nuovo motore blu DCI 4x4 190 cavalli. Anche domenica. Belle le passeggiate, ma vuoi mettere il calduccio di casa? Un po' di relax sul tappetino autoriscaldante in varie misure, scontato del 30%? E poi le coccole del buon cibo, Royal Canin Dog Mini Adult 2 kg a 12,90 € per i buon gustai. E tutte le diete veterinarie scontate del 20%. Ma affrettati, le promozioni scadono il 19 gennaio. Ah, grazie. Allora prendo... No, scusi, parlavo con Max. Ogni giorno mille promozioni da Arcaplanet, Pet Store, Pet Stories. Vuoi vendere i tuoi prodotti negli Stati Uniti? Gen USA offre alle aziende nuove soluzioni per entrare nel più grande mercato del mondo. Personale specializzato seguirà per voi tutte le fasi dello sviluppo commerciale. Le aziende potranno avere una presenza stabile negli Stati Uniti in tempi brevi e a costi ridotti, grazie alle strutture di Gen USA già presenti sul territorio. Gen USA fa crescere il fatturato della tua azienda. gen-usa.com. I desserti menù sono tiramisù, tortino dal cuore caldo, semifreddo alla marena e tartatin congelato. Cosa desidera? Tutti. Grazie. Per chi non vuole rinunciare a nulla, nasce la nuova gamma Fiat Tipo More. Più stile, più tecnologia, più sport. Nuova gamma Tipo More con anticipo zero da 149 euro al mese per i primi due anni e poi da 204 euro al mese. E con l'assicurazione make-up inclusa i piccoli danni non sono più un problema. Ci pensa Fiat. TAN 645, TAE GOT 39, offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 gennaio. Info su fiat.it. Grande giocata anche questa, poi il tocco di prima a cercare Vlahovic, occhio alla possibilità per la Fiorentina in campo aperto, va col mancino, 2-0, un gol bellissimo, Vlahovic. Perché oggi non è stato un bel vedere, è stata una partita imbarazzante, è stata una partita che non ci meritavamo solo i fischi, ci meritavamo anche i pomodori. E la verità è questa, la verità è questa, la verità è questa. E spero di non vedere più una prestazione così, perché per un allenatore venire qua a spiegare la prestazione che abbiamo fatto oggi in un momento così delicato, come ho detto già all'inizio conferenza, è difficile ed è anche molto imbarazzante. Siamo incontrati stamattina, siamo messi la maglia, siamo scesi in campo e questo non va bene, le ripeto, la più grande responsabilità è la mia e del mio staff, però così sicuramente non si può continuare, perché abbiamo toccato il fondo, non stiamo toccando, e qua bisogna capire cosa stiamo andando incontro. Finisce qui, finisce con la vittoria della Fiorentina, con i fischi del San Paolo, questo. Mentre saluto l'arrivo del maestro Ferronati in regia, vi rendo conto del vantaggio della Roma dopo 5 minuti, il solito Renzo Pellegrini on fire, più che mai su un cross tagliatissimo di Under, quindi Roma in vantaggio 1-0 a Genova con il Genoa, questa è una buona notizia per il Napoli. La storia è così triste, la copertina è così triste che io lascio a Giovanni Capone il compito di iniziare le danze. Abbiamo Antonio Giordano in linea, Gigi De Canio, saluto entrambi, Giovanni. Credo che gol sia di Cengiz Under, credo che Pellegrini non abbia toccato, sì, però verificheremo, vago, verificheremo, sì. Poi. Alcuni danno a Pellegrini, altri a Under, comunque, Roma in vantaggio. A me viene da piangere sul Napoli. Insomma, la lettura del momento del Napoli l'abbiamo fatta troppe volte in questa stagione. Questo è forse il momento più brutto, forse ce n'è stato almeno uno peggiore a novembre. Io, e lo abbiamo detto prima, io sono convinto che questo allarme di Gattuso, l'idea che ci si debba guardare dietro in classifica perché il Napoli sta sprofondando, in realtà sia un tentativo estremo di alzare il livello dell'attenzione, ma non corrisponda poi alla realtà. La classifica, per quanto brutta, insomma, non è una classifica da squadra che rischia di retrocedere. Diverso è invece capire perché nemmeno Gattuso sia riuscito ad attaccare quella spina. E questo è abbastanza particolare, questo è abbastanza difficile da comprendere. Lo dicevamo prima, il Napoli non riesce a fare due partite uguali una di fila all'altra. Mm-hmm. Cioè all'Olimpico con la Lazio aveva fatto una grande partita, ieri sera bastano le parole di Gattuso, insomma, a raccontare che Napoli è stato quello prima ancora con l'Inter, era stato molto simile a quello di ieri sera. E c'è questa sensazione di incapacità di chiunque ci metta le mani di riuscire a dare una scossa al Napoli. Questa è secondo me la cosa che veramente sorprende. Gigi De Canio, buonasera. Dove si trova la spina in situazioni come queste? Buonasera, bentornati. Come allora, si attacca la corrente? Dove si attacca la corrente? Bisogna essere dentro per capire, guardare un po' i calciatori, conoscere le dinamiche in maniera più profonda. Quello che si vede è di una squadra che sembra smarrita e che abbia tanta buona volontà, ma che abbia perso il bandolo della matassa. Antonio Giordano, ciao, hai qualche spiegazione su questo? Perché io l'ho detto prima, ovunque la guardia, la situazione nel Napoli è un disastro. Società, rapporto giocatori-società, rapporto giocatori-pubblico, rapporto pubblico-società, non c'è nulla che vada bene, non mi sembra ci sia quasi nessun punto da cui ripartire. Dunque? Abbraccio tutti e soprattutto a Gigi. Bisognerebbe capire se serve un elettricista o uno psicologo. Tutte e due. Un allenatore che prenda frontalmente questa situazione di petto, ci metta le mani seriamente e tagli, purtroppo, in maniera anche netta, i grandi equivoci che ora ci sono. Il Napoli di ieri ha dimostrato di non essere una squadra. Prima sentivo dire giustamente che il Napoli non riesce a fare due partite di seguito, mi permetto di aggiungere che non riesce a fare neanche una buona contemporaneamente, cioè durante i 90 minuti. E non può essere. Beh, il Napoli dell'Olimpico non era stato brutto, Antonio. Primo tempo direi di sì. Però rimane il secondo tempo negli occhi. Ma il primo tempo direi di sì. Cioè, una squadra che assume un atteggiamento esclusivamente passivo. Cioè, il valore del Napoli non può essere quello del primo tempo dell'Olimpico, neanche meno quello di ieri sera, onestamente. E quindi esistono problemi di carattere ambientale, tecnico, strutturale, ma esiste anche una verità di fondo, cioè questa è una squadra che ha delle qualità e che improvvisamente non mostra più. È anche abbastanza assurdo, come dire, dal punto di vista proprio strettamente razionale, che questa squadra decida di andare in ritiro e che questo ritiro duri come un pigiama party fino alle 13:30 di oggi. Sì. Gigi, come si può agire in una situazione come questa? Nel senso, Gattuso dovrebbe così mettere fuori, diciamola brutta, mettere fuori rosa i giocatori che hanno dei problemi particolari con la società, Dallan che vuole andare via, quelli che sono in scadenza di contratto, si va avanti in un'altra direzione, perché mi sembra una squadra stritolata anche dalla paura, dalla pressione, anche se vale la considerazione che quando arrivi a fine ciclo, e questo Napoli è a fine ciclo, non riesce a vedere il fondo del tunnel. Beh, diciamo che intanto a questo Napoli mancano dei giocatori importanti, perché in un momento buio si trova senza nessuno a sinistra, con giocatori che si devono improvvisare, e si trova a giocare con un ragazzo bravo ma ancora giovane e inesperto, soprattutto per recitare un ruolo importante in un Napoli in difficoltà, e parlo di Luperto, no? Senza un giocatore come Koulibaly. Quindi una squadra che in affanno perde ancor più delle certezze. E poi c'è la volontà dei giocatori di recuperare una condizione, un certo modo di stare in campo, un risultato, ma che non ne ha più la la convinzione, non ne ha più la forza e non ne ha più le caratteristiche, perché si trova un allenatore che le chiede di fare qualcosa di diverso. In tutto questo si crea quel minimo di confusione, non accompagnato da quei risultati attesi e che potevano dare una specie di un po' di morale, insomma. E quindi, poiché l'aspetto psicologico è fondamentale per qualsiasi tipo di squadra, per il Napoli in questo momento ancora di più, io credo che sotto questo profilo debba Gattuso recuperare alla migliore condizione e schierare probabilmente quei calciatori che garantiscono una tenuta oltre che mentale, ma soprattutto fisica. Cosa chiederesti alla società, fosse la tua società in questo momento? Ma innanzitutto, io l'ho detto, mi sono espresso in altre circostanze, prima di tutto il Napoli ha bisogno in maniera assoluta quantomeno di un terzino sinistro, poi ha bisogno di un altro difensore, perché il finale di campionato, l'impegno di Champions da non sottovalutare, vanno affrontati con giocatori che abbiano esperienza e spessore anche in prospettiva futura. Grazie Gigi. Napoli ha speso 30 milioni nei primi 3 giorni di mercato, sì, più o meno. Io non so se De Laurentiis abbia voglia di continuare a investirci. Allora, facciamo in questa così stagione. Lasciamo Gigi Di Canio, ci teniamo Antonio Giordano, andiamo oltre il traffico e diamo un'occhiata proprio a questo settore, no? dei mille settori, dei problemi del Napoli, cioè quello del mercato. Cosa si fa adesso? Perché potrebbero esserci richieste per Koulibaly, magari per Allan, magari per gli altri dissidenti. Traffico. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, fatemi capire, che cosa dovrebbe fare in questo momento la società Napoli, che pure ha delle pesanti responsabilità nella situazione in cui si è arrivati? Antonio? Semplicemente far sentire la propria presenza, quella che spetta un direttore tecnico, sportivo, generale, nella figura di Giuntoli, e di mettere a posto una situazione che dal punto di vista soprattutto psicologica mi sembra dimostri grandi problemi ed enormi lacune. La questione credo sia riconducibile innanzitutto al passato più remoto di questa stagione, cioè non è da riscontrare soltanto nelle ultime 5 partite in cui errori sono stati commessi anche da parte di Gattuso, soprattutto ieri sera, e probabilmente anche sicuramente da parte della squadra nell'interpretazione di una partita, ma va cancellato quel malessere che si è diffuso da novembre in poi. Cioè la serata del Napoli è quella del 5 novembre, dell'ammutinamento, sì, quando si è rotto l'anello di congiunzione tra squadra e società, e ora va ricomposto immediatamente, altrimenti diventa una scalata improbabile dell'Himalaya. Però tu, Giovanni, dicevi, sottolineavi quanti soldi sono stati spesi ora sul mercato. Ora mi sembra abbastanza quasi inutile ricorrere al mercato, no? Perché qualunque giocatore messo in quella condizione lì nulla può fare, nemmeno fosse Maradona. No, io credo poi soprattutto che siamo alla vigilia di una rifondazione completa e complessiva. Appunto. Quindi io ho sempre immaginato, e in parte lo avevamo anche raccontato, che a metà campo ci fossero state delle lacune alla fine del mercato estivo, e quindi riteniamo lo Walk e Demme in un certo senso il completamento del mercato estivo. Lacune ci sono anche da qualche altra parte, però io non penso, ma mi fido di quello che dice e che dirà Antonio Giordano, che De Laurentiis abbia voglia a gennaio di mettere mano ancora a qualche arrivo. Ho l'impressione invece che nei prossimi mesi il Napoli dovrà un po' trascinarsi per arrivare alla fine e poi fare l'elenco di quelli che vanno e a quel punto di quelli che arrivano per aprire un nuovo ciclo. Io la vedo un po' così, quello che resta della stagione del Napoli. Tolto Lobotka e Demme, poi manca un esterno, manca un difensore centrale, manca davvero tanto, ma non è il momento questo per mettersi di nuovo sul mercato. Sì, magari in uscita, Antonio, proprio per riannodare i fili, magari accontentare chi non è contento. Mi viene in mente per primo Allan, ma poi ce ne possono essere degli altri. No, devo dire che Allan, tra l'altro, è quello che maggiormente sente in questo momento dal punto di vista proprio emozionale, no? E tra l'altro ha persino avuto modo di incontrare Gintoli, il suo manager, ovviamente, affinché si potesse discutere di un rinnovo che sembrava fosse nelle corde del dialogo. Il problema è sul mercato oramai inesistente, come diceva prima Giovanni, cioè è inutile intervenire e investire ulteriormente per una squadra che sostanzialmente c'è, perché è indubbio che esista un valore assoluto di questa squadra. Non può valere 24 punti in Napoli, dai, su. Ma è la stessa squadra che un anno fa ne ha fatti 71, senza perdere praticamente nulla. Aveva già perso Anderson, che ha perso soltanto Albiol. Cioè ridurre soltanto all'assenza di Albiol questa metamorfosi che nel primo bimestre non si è avvertita, perché questa è comunque la squadra che aveva battuto il Liverpool, che aveva dato dimostrazione di essere in viva pure a Torino quando ha perso 4-3 giocando un primo tempo inguardabile, poi quasi ribaltando una partita in maniera clamorosa. È saltato qualcosa nel congegno, ma è saltato qualcosa nel congegno elettronico e cerebrale della squadra. È evidente che sia così, insomma, non possiamo dire che il valore assoluto del Napoli sia questo qui, però torno a pensare a comunque grandi squadre a fine ciclo con grandi giocatori che avevano vinto tutto e che poi si trovavano più o meno nelle stesse condizioni dopo che si era tolta, si era staccata completamente la corrente dell'emotività. Grazie Antonio, alla prossima, ci sentiamo. Grazie molto presto. Allora, Andrea, provincia di Torino, è un ascoltatore, così il prossimo ospite, che è Max Nerozzi, che già saluto, risponde. Ciao Max, buongiorno Andrea, buonasera Andrea. Buongiorno. Dica. Allora, volevo fare una considerazione che ho fatto stamattina prima della parte dell'Inter. Uno, che io l'avevo detto che secondo me tutte queste voci degli arrivi dei giocatori dell'Inter, perché un conto se arriva un giocatore e basta, ti metti 3-4 giocatori, io fossi i giocatori della squadra che hanno tirato la carretta per 19 partite e andato il massimo e forse più del massimo, dicono: oh cavolo, noi ci siamo fatti un cosiddetto mazzo per 19 partite, poi arrivano questi e in testa di frullare qualcosa. La seconda cosa, io ho detto già stamattina che io ho più paura della Lazio che dell'Inter, anche perché la Lazio nello scontro diretto ci ha battuto. E quelli sono punti che valgono doppi. Ecco, e la Lazio sa come batterci. Io non ci sono tante squadre negli ultimi anni che se a Torino la Lazio, per esempio, io sono sicuro che può anche batterci. Mentre Inter no. E se la Lazio ci batte a Torino, ho più paura della Lazio che non dell'Inter. Max, prego. Ciao. No, siccome la Lazio sta andando fortissimo e lo stesso Sarri ha perso due partite ravvicinate con la stessa squadra e non era inaugurante, però io ho l'idea che la Juve da qui a maggio non faccia altro che migliorare. E quindi come rendimento, come giocatori, poi magari bisognerà vedere come sono calibrate. Per esempio Dybala adesso è una pazzesca, ma lo dicono anche i dati atletici dello staff. C'è chi dice sarebbe stato meglio essere così a febbraio-marzo quando inizia la Champions League, poi magari Dybala tira dritto fino alla fine. È un periodo un po' particolare. Io mi ricordo anche Conte qua a Juve, visto che parlate anche dell'Inter, ha sempre avuto un po' di flessione fisica. Lui stesso mi sembra che dopo la partita di Lecce dice: cioè, andiamo a questa velocità qua, sì, non vinciamo mai. Secondo me per l'Inter, oltre che velocità di mercato, è un problema anche di velocità di punta, di tenuta fisica. E Conte il primo anno fantastico nella Juve, si tirò di fece anche molti pareggi, non perse mai, ma pareggio molto. E penso che sia anche una questione fisica. Sì, e quindi un po' di un rabocco di benzina è indispensabile. Guarda Moses, secondo me con Conte adesso non so come sta atleticamente, che ha avuto molti infortuni, ma se ti ricordi quando Conte arriva al Chelsea Moses non giocava mai. E con Conte diventa un giocatore fondamentale in modo che sia in Inghilterra. Vediamo l'impatto che avranno questi giocatori, insomma. Sì, Giovanni? Sì, può essere, però molto spesso abbiamo raccontato che il mercato di gennaio, una delle variabili che fa la differenza è quella della tempistica, cioè se tu porti un giocatore il 6 di gennaio ha un peso, se lo porti negli ultimi minuti, e capita spesso, del 31 gennaio, di fatto hai perso un mese, ora che tu puoi avere quel giocatore, e gennaio è anche il mese insieme a febbraio in cui si decide veramente la lotta a scudetto. Per questo io dico attenzione, perché i 4 pareggi nelle ultime 6 partite dell'Inter indicano una normalizzazione del percorso, che resta straordinario, che resta secondo me di semina, perché l'anno prossimo l'Inter parta davvero con una rosa vicina a quella della Juventus e con l'idea di poter far corsa per lo scudetto. Però la scommessa sull'accelerazione di questo progetto, sull'accelerazione di questa idea, nasceva dal fatto che l'Inter continuasse a fare qualcosa di straordinario. Mi sembra che oggi Conte abbia certificato, ha citato anche Firenze fa parte di questa serie di partite, che questa straordinarietà in questo momento decisivo della stagione non c'è. Quindi l'Inter non è più straordinaria, la Juventus è in crescita, Sarri non ha paura, chiudiamo baracca e burattini e ripassiamo l'anno prossimo? Così. Beh, c'è la Lazio. C'è la Lazio. Quindi ci affidiamo... Anime, non ci affidiamo soltanto alla Lazio, perché poi questa è una stagione che sarà particolare, perché poi alcune pressioni, io sono sicuro, la Juventus le sentirà quando a febbraio o marzo arriverà la Champions League. Nel sorteggio degli ottavi è stata fortunata, ha preso un avversario abbordabile, dovrebbe costare poco dal punto di vista di energie fisiche e soprattutto mentali. Poi vediamo che cosa capiterà dai quarti in poi. Ad esempio, tornando al Conte della prima Juventus, è vero che non perse mai, pareggiò molto, poi però alla fine vinse lo scudetto anche sfruttando la debolezza del Milan, che si succhiò parecchie delle sue energie in 2 settimane di doppio impegno di Champions League. Quindi io credo che se c'è una cosa che oggi fa arrabbiare Conte è l'idea di staccarsi dalla Juventus, di non continuare a mettere quella pressione, perché questa è una stagione che ti racconta che se tu gli stai vicino, poi esatto, a marzo puoi sederti e aspettare, esatto, di vedere l'effetto, infatti, che fa. È per questo che io, Max, mi rifiuto di pensare che la corsa tra Inter e Juventus sia finita. Secondo me va avanti fino alla fine, al di là della flessione dell'Inter, della crescita della Juventus. A me non sembra che l'Inter sia così in calo, salvo oggi non mi sembra neanche che la Juventus sia in questa fase di evoluzione straordinaria, perché ha giocato una grande partita ma contro le riserve dell'Udinese, diciamoci la verità, in Coppa Italia li abbiamo visto lampi e bagliori. No, per carità, hai ragione, magari andrà così. Io noto soltanto che se lasci un po' di vantaggio alla Juve hai comunque una squadra che è abituata a stare davanti e quindi anche a gestire, e poi secondo me, vedendo in prospettiva lunga, ho questa idea qua che la Juve, pur tra i carichi che ha avuto, ha nel campo pilota automatico, che gli altri secondo me non ce l'hanno. C'è la Lazio, gioca benissimo, io ho visto l'altra sera veramente bene, ma vanno ai 200 all'ora. E io ero stato a Roma a vedere Roma-Juve, e la Juve ha vinto, ma gli ultimi 20 minuti con in folle, poteva finire anche 2-2 per carità, non è andata così. Ho ancora l'idea che, nonostante il sarrismo, all'inizio della vostra trasmissione, anzi della vostra stagione, parlammo se si ronaldizzava più Sarri o se si sarrizzava più Ronaldo. Secondo me Sarri ha preso anche questa qualità della Juve, cioè che alcune partite le ha portate a casa, oggettivamente magari meritando meno del gioco espresso, però le ha portate a casa. Questo è il suo grandissimo merito, è il più grande dei suoi non meriti. Non parla più di aggredire la partita. Bravo. Anche dopo il vantaggio, vi ricordate come si arrabbiava le prime settimane? No, ma è il più grande dei suoi meriti, Giovanni, è il più evidente dei suoi meriti, questa duttilità che se è il più grande e il più evidente dei suoi meriti lo decideremo a fine stagione, perché poi da questo punto di vista Sarri è legato a quella cosa lì, cioè il risultato e possibilmente arrivarci facendo una strada diversa rispetto a quella di Allegri, però sicuramente abbiamo la risposta a quella domanda che facevamo. Detto questo, la domanda è: contro il Parma in casa, in una partita che non dovrebbe proporre grossissime difficoltà, anche se il Parma, attenzione, è una squadra che quando riparte fa male, ci riprova col tridente, o dobbiamo considerare che l'esperimento fatto nelle scorse settimane in un certo senso sia stato considerato abortito? In realtà, scusami, l'ho interrotto, in realtà proprio adesso, mentre prima c'è la riunione tecnica, l'unica incognita è quella, se Rams dietro o giocarsi fuori dall'inizio, è praticamente l'unico dubbio, e devo dirti che la panchina, per esempio, gli attaccanti, la rotazione ha fatto bene, che Higuain l'altra sera al 95esimo correva dietro. E la tentazione ieri era quella di far giocare tutti e tre. C'è però a Roma mercoledì, quindi comunque una delle due Ramsey la gioca sicuramente. Ti aspetti più Ramsey, cioè più Tridente stasera o più Tridente mercoledì con la Roma? Teoria stasera, se tutti stanno bene fisicamente, conta che Ronaldo rientra. Una delle due, cioè sicuramente non le giocano tutte e due col Tridente. Poi è vero che manca Gervinho, e poi qui a Torino sta facendo un gran freddo, ma sono tutti, per dirti come corre il mercato della palla, sono tutti attenzione a Kulusevski, perché ovviamente lo considerano già un giocatore della Juve e sono curioso di vederlo. Io noto la crescita di Rabiot comunque, sì, tra i fattori positivi di questi ultimi giorni. Sì, ne ha parlato anche ieri, e ne parla anche Deschamps in Francia, che potrebbe tornare in nazionale. Sarri ha detto... mamma non vuole, però. No, mamma non vuole. Non ci andiamo. No, penso che ci sta. No, soprattutto ha avuto problemi di ambientamento e ci sta. Ha sei mesi che non gioca nel PSG, soprattutto ha un po' di salute e fiducia nei suoi mezzi. Ecco, penso che Rabiot, se trova continuità, è una delle cose che possono far crescere la Juve, perché ha fisico ma anche i piedi. Certo. E nell'idea di Sarri l'abbiamo detto mille volte, Ramsey e Rabiot, che sono i due stati più cagionevoli, probabilmente sulla carta tecnicamente sono le due mezze ali di cui lui andava cercando. Allora, mentre la Roma conduce sempre 1-0, 31esimo del primo tempo, sta provando a chiudere la partita, gol di Under, forse deviazione di Pellegrini, questo non l'ho ancora capito, capiremo dopo. Giovanni Capuano mi dice, mi fido la di la Lega lui, dal gol a Under. Under, allora timbriamo il gol di Under. Comunque fatto sta che la Roma vince 1-0 al 32esimo. Grazie Max Nerozzi, ci fermiamo un attimo. Ciao e torniamo con Bar Anatomy. Bene, allora siamo tutti convocati. Convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Tutti convocati. VAR Anatomy. Con Luca Marelli. Mi dice Edoardo Lavezzari di twitteristi scatenati in attesa di VAR Anatomy, soprattutto su Lecce Inter. Ciao Luca Marelli. Ciao Carlo, buonasera a voi. Mi sembra tre gli episodi in questo senso, in questa partita. Sì. La mano di Sensi, rigore dato, poi tolto, il gol annullato a Lukaku, che è arrivato prima di questo episodio, e poi un presunto rosso a Donati, peraltro decisivo anche nel finale per un paio di salvataggi. Inquadrami queste situazioni. Guarda, Giacomelli oggi ha arbitrato due partite differenti. Primo tempo inguardabile, oggettivamente, sai che io sono sempre molto dalla parte degli arbitri, ma oggettivamente oggi è stato il primo tempo, è stato veramente terribile. Secondo tempo bene, ha arbitrato bene, senza nessun tipo di problema, però nel primo tempo c'è molto da rivedere. Andiamo per ordine, sì. cronologico, Lukaku. Partiamo da Lukaku, io non vedo il fallo, sicuramente non c'è un fallo su Gabriel. Perché al limite si può ipotizzare un braccio, il braccio destro appoggiato sul difensore, che francamente mi sfugge chi sia in questo momento, ma ed è anche vero che il difensore tiene Lukaku per la maglia, perciò io sinceramente non riesco a vedere nessun fallo. È da segnalare che Giacomelli, al momento del fischio, quando sanziona il fallo in attacco, è a 25 metri di distanza, perciò difficile che abbia voluto vedere qualcosa, è andato a sensazione esattamente come rigore ci arriviamo. Sull'espulsione io trovo inconcepibile l'ammonizione dopo review. Tra l'altro Giacomelli aveva fischiato il fallo senza ammonire, poi si è fatto aiutare dall'assistente a cui è rivolto un gesto con la mano per il giallo, Guida giustamente l'ha richiamato perché il fallo è orribile, perché Barella ha rischiato tipo e perone, è un grave fallo di gioco abbastanza evidente, rigore sproporzionata. Onestamente il giallo non riesco a capire, la conferma della decisione assunta in campo non riesco a comprenderla. Per quanto riguarda rigore è abbastanza semplice, la mano di Sensi probabilmente ha anche toccato con la mano, non c'entra nulla il fatto che sia potesse arrivare a qualcuno in mezzo all'area, quello che deve essere considerata è la punibilità o meno del tocco di mano, il braccio è aderente al corpo, attaccato proprio al busto, perciò non c'è assolutamente. Giacomelli, tra l'altro, ha fischiato, questa è una curiosità, ha fischiato dopo essere caduto dopo uno scontro con Candreva e ha fischiato da terra praticamente ed è andato un po' a sensazione. E se c'è un errore che non deve essere commesso in campo è quello di fischiare a sensazione, perché poi si cade in questo. Secondo me, Giovanni, sul gol di Lukaku mi viene da dire che è il classico fischio che gli arbitri fanno. So che Luca si arrabbierà perché giustamente poi tutti gli episodi sono diversi, però solitamente quando tu vedi un grappolo con un attaccante, un difensore, il portiere che va giù, insomma, io credo che nel 99% dei casi c'è il fischio a favore del portiere, ed è quello che secondo me è successo un po' con leggerezza oggi. Poi in realtà già dal primo replay tu hai visto che quel contatto non c'è stato. E quindi insomma era abbastanza poco spiegabile il fischio di Giacomelli. Perché infatti il pallone lo ha perso Gabriel, lo ha perso perché si è scontrato con il suo compagno di squadra, certo, no, poi una curiosità, Luca, era un episodio varabile? Se non avessi fischiato subito si poteva discutere, però direi che è difficile in questo caso ipotizzare un chiaro ed evidente errore. È una valutazione dell'arbitro, ma vado a sensazione. Se avesse lasciato proseguire l'azione e poi avesse fischiato il fallo, il VAR avrebbe semplicemente confermato. Anche se l'avesse fischiato prima, avesse fischiato dopo, non credo che sarebbe intervenuto per annullare. Cioè, nelle due situazioni in ogni caso il VAR non sarebbe intervenuto perché non si configura un chiaramente errore, ma la valutazione soggettiva. Tanto è vero che, lo dico io per primo, la mia è una valutazione soggettiva, la mia. Cioè. Secondo me non c'è alcuna infrazione in quell'occasione. Però ha ragione Giovanni, è una dinamica sulla quale quasi sempre si fischia a favore della difesa, anche se oggettivamente Giacomelli probabilmente ha fischiato il fallo sul portiere, ma il fallo sul portiere non c'è. Sì, che poi verrebbe anche a domandarsi come è possibile che un arbitro cambi, cioè per una squadra me lo spiego, per un arbitro meno, che cambi così radicalmente tipo di prestazione tra un tempo e l'altro. Questo potrebbe essere un dato collaterale. Invece, Allan, ieri sera quella manina in area? Anche qua siamo a livello valutativo. È un episodio che viene definito grigio o borderline, cioè possono esserci interpretazioni diverse. Io sono un pochino più filo arbitrale, perciò da questo punto di vista io credo che possa essere giustificato il mancato fischio di Pasqua, perché si tratta della classica situazione del pallone inatteso, un po' come quello di Lucioni in Lecce Roma a inizio campionato, anche se diversa come dinamica, però è un pallone che Alla non si aspettava di arrivarsi addosso da una respinta sbagliata di Luperto in mezzo all'area. È anche vero, però il braccio è molto alto. È chiaro che qui siamo veramente sul piano delle valutazioni soggettive, molto soggettive. Per quanto mi riguarda, è la mia opinione, so benissimo che può essere attaccabile, che può essere discutibile, opinabile. Io ho apprezzato il non calcio di rigore, ma ho apprezzato anche il fatto che Fabbri abbia richiamato l'arbitro non decidendo lui stesso su un episodio che probabilmente Fabbri aveva visto ma non era riuscito a valutare, perché se tocchi ma non sappiamo quanto sono difficili non soltanto a valutare ma anche solo da vedere. Giovanni? Invece non c'era il secondo rigore per la Lazio di ieri con la Sampdoria, ne parliamo tranquilli, arbitro Chiffi, se non sbaglio al VAR Manganiello. Ne parliamo tranquilli perché la Lazio ha vinto 5-1, quindi un rigore completamente ininfluente sull'andamento della partita, ma lo trovo un errore clamoroso, perché quel fallo di mano, se vi ricordate le immagini, le descrivo brevemente, insomma, c'è il difensore che va in scivolata con il braccio che va a toccare terra, quindi va ad appoggiarsi, e su quel braccio arriva il pallone, è esattamente una delle casistiche previste dal regolamento per escludere la punibilità sul calcio di rigore. Ora io veramente trovo incredibile che sia stato dato il rigore, tra l'altro con revisione al VAR, quindi con due arbitri che alla fine decidono che quello è calcio di rigore. Hai detto tutto, cioè nel regolamento sulla nuova descrizione del fallo di mano c'è una eccezione, che è quella che è successa ieri, che è uguale all'episodio del 2017 tra Inter Juventus e Icardi Benatia, cioè il braccio che è appoggiato a terra, il pallone incrocia sul braccio, non conta nulla che il pallone andasse verso la porta, ripetiamo questo concetto, quello che va valutato è la punibilità o meno del gesto, anche se il pallone fosse andato verso la porta senza portiere, In ogni caso bisogna valutare se si tratta di un gesto punibile o meno. In questo caso l'eccezione è nel regolamento stesso, lo stesso motivo per cui non viene assegnato il calcio di rigore all'Inter. Però Luca, guarda, che il cortocircuito sia ormai conclamato e che nessuno ci capisca più nulla, lo si vede anche dalle proteste molto comiche in un paio di situazioni di Pioli oggi del Milan, su situazioni che mai nella vita possono essere fallo di mano, no? Però in questo momento, come una palla è nei pressi di un braccio, comunque sia il braccio, si va a protestare, a chiedere il VAR, a porsi dei dubbi. Intanto il raddoppio del Genoa, della Roma. Sì, tra l'altro di braccio, credo, di un difensore. Adesso lo vediamo. Adesso lo rivedremo, mi pare prima autogol, tra l'altro, la curiosità su una grande azione di uno dei protagonisti di questa settimana per altri motivi, Spinazzola. Cioè Spinazzola. Che a sinistra ha fatto una bella azione, poi ha messo il pallone nei pressi dell'area piccola, ha trovato il corpo di un difensore del Genoa, palla dentro. Adesso vediamo se è di braccio, vediamolo insieme in diretta. È la mia sensazione, Driving di ispirazione, no, petto forse, Luca, che dici? Può darsi. Sto becchiando anch'io, siamo qui a guardarlo tutti insieme in diretta. Bellissima azione di Spinazzola e poi c'è una deviazione. Vediamo meglio da qua, vediamo un attimo subito. Bella anche questo, fa tutto questo in diretta. Non si vede. Impallato. Sopravviveremo, anche perché tanto, anche fosse colpo di braccio, sarebbe tutto assolutamente regolare. Assolutamente, ma no, tornando un attimo velocemente sulle proteste di oggi, che ma giustamente fatto notare Carlo, è vero, ci sono proteste che sono oggettivamente incredibili. Ha segnato la Genoa. Sì. Pandev 2-1. Bene, è partita divertente. Ci sono tante proteste che obiettivamente sono incredibili. Oggi, per esempio, Pioli si è preso anche la munizione le proteste su un contatto che probabilmente non c'è neanche prima, ma in ogni caso Pairetto era a 10 metri ed era impallato perché il contatto è stato di striscio, perciò non aveva prospettiva. Immagino Pioli che a 50 metri reclamava un calcio di mano, impossibile capirlo. Cioè ormai si protesta un po' sulle sensazioni, questo non va bene oggettivamente. Eppure ci sono queste sanzioni disciplinari per gli allenatori, ma sembra che non servono a nulla in realtà. Grazie Luca, grazie. A domenica prossima. Dunque 2-1 ha segnato Pandev su una totale colossale dormita dell'intera di Roma, su un lancio da dietro, e Genoa che riapre con un lampo la partita, 2-1 per i giallorossi. Traffico, torniamo. Una puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena, e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa. Tutti convocati. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Tutti convocati. Alessandro, buonasera da Ravenna. Buonasera a tutti. Guardi, molto velocemente, io chiamo così, al di là degli episodi del successo oggi con l'arbitro per l'Inter, a me sembra che la squadra sia povera tecnicamente. Quando una squadra come il Lecce fa una diga davanti al portiere, lì l'1-2 chi lo fa? Chi è che salta l'uomo? Cioè ci sono degli oggettivi limiti di quella squadra. Ma no, forse la partita di oggi ha fatto l'Inter magari più brutta di quella che è, non sarei così drastico, mi sembra che in molte altre situazioni c'era chi saltava l'uomo, chi trovava dei gol pazzeschi come ha fatto Lukaku diverse volte. Oggi sono mancati banalmente Lukaku e, e Lautaro ai livelli che conosciamo, e l'Inter aveva un'intensità un po' inferiore. Rabbocco di benzina necessario, la chiuderei qui, l'aggiornerei qui la partita, la storia di oggi, no Giovanni? Sì, sì, ma insomma è quello che abbiamo detto dall'inizio e che poi Conte ha confermato. Vediamo che cosa succede in settimana. Risulta che entro 48-72 ore dovrebbe esserci la svolta definitiva per Eriksen. Insomma, credo che sia quello che Conte comincia ad attendersi. Senti, come sviluppi la tua serata televisiva? Beh, intanto c'è questo Juventus-Parma che è diventato una partita vera e importante, perché è una partita che ci deve raccontare se la Juventus riesce a fare quel break che diceva bene prima Max Nerozzi. Attenzione, queste stagioni ci hanno raccontato che quando la Juventus riesce a prendere un po' di vantaggio, poi dopo diventa una squadra difficile da recuperare. E quindi questa è una serata così. E poi vediamo, perché chiaramente siamo soltanto alla prima di ritorno, c'è ancora tanta strada da fare. La sensazione che mi porto via da questa domenica è quella di una normalizzazione, non solo dell'Inter ma più in generale, diciamo, sì, della lotta a scudetto. Io stasera mi attrezzo con diversi televisori perché voglio vedere le due semifinali dell'NFL. Ciao Simone Sandri da New York. Buon pomeriggio Carlo. Ciao. Kansas City, Tennessee, tanto per aprire, 21:05 ora italiana, a seguire 12:30 San Francisco contro Green Bay. Come la mettiamo? Kansas City contro la regina delle underdog, Tennessee Titans, ha una favorita chiara? Proprio così, la regina delle underdog, hai detto benissimo, hanno fatto due sorprese di fila. I Titans hanno battuto Tom Brady e i Patriots al primo turno, poi hanno fatto la sorpresona battendo Baltimore, che era la squadra favorita per il Super Bowl quest'anno, tutte e due in trasferta, e adesso cercano di fare il trittico e di provare a fare lo sgambetto ai Chiefs, che sono, come hai detto benissimo, sono strafavoriti. Anche secondo Las Vegas sono favoriti circa di 7 punti, quindi un touchdown. Possono contare su forse il giocatore offensivo più affidabile degli ultimi tempi, che è Patrick Mahomes, questo splendido pazzesco quarterback, un talento veramente eccezionale, ha delle doti fisiche eccezionali, ha un'intelligenza, ha un IQ, come si dice qua negli Stati Uniti, fantastico, è incredibilmente affidabile nei momenti importanti. Ricordiamoci che domenica scorsa Kansas City era sotto 24-0 in casa contro i Texans, non andava, nulla andava bene. Patrick Mahomes si è caricato la squadra sulle spalle e hanno trasformato, dal secondo quarto in poi hanno trasformato il suo attacco nell'attacco più esplosivo della NFL, quale ci ha abituato a fare, e la partita è finita 51-31, per cui una cosa incredibile, essere sotto 24-0 e poi vincere di 24 punti è una cosa spaziale. Ha girato la partita spaziale come un guanto. Nell'altra invece, esatto, c'è Garoppolo contro Rodgers. Garoppolo è la nuova favola dei 49ers contro uno dei quarterback storici, Green Bay Packers, Rodgers. Assolutamente sì, Garoppolo era considerato l'erede di Tom Brady ai Patriots, e poi però ha visto che Tom Brady non smetteva, per cui ha cambiato aria, è andato a San Francisco, ha trovato la sua dimensione, ha prodotto una stagione veramente buona, di fronte avrà Aaron Rodgers, uno dei migliori quarterback della sua generazione, 36 anni, ma è ancora decisivo ed è ancora il giocatore che può decidere una partita quasi da solo. Non dimentichiamoci anche la straordinaria difesa dei 49ers, guidata da un rookie, da Nick Bosa, che è un rookie che ha una storia stranissima, perché è stato scelto dai 49ers, è arrivato in punta di piedi con molto scetticismo anche per un discorso politico, perché è un fan di Trump, criticato molto a San Francisco, che è un enclave liberal. E invece adesso è diventato l'idolo assoluto della città, della squadra e dei 49ers, perché la sua stagione è stata straordinaria. All'urlo di volta chi ti pare, portaci al Super Bowl. Bravissimo, più o meno così. È proprio così, quando si parla della politica e lo sport, poi alla fine, quando hai i risultati sul campo, cambiano tutte le prospettive. Poi. Grazie Simone, ci sentiamo nei prossimi giorni naturalmente. Grazie a voi. Grazie Simone Sandri, ciao Giovanni, alla prossima. Resto su Juventus Parma. Beh, ma c'è tempo di fare tutte e due le cose. Ciao. Ciao a tutti, grazie anche a Edoardo Ravezzari, naturalmente il nostro autore, a Gianmarco Ferronati in regia, ciao a tutti. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani, enjoy. Saluti.